I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Buongiorno, la notizia è buona e visti i tempi che corrono non c'è da fare troppo gli schizzinosi. La Commissione Europea ieri ha dato via libera alla legge finanziaria italiana, la legge di stabilità come si chiama adesso, aggiungendo però che continuerà a monitorare attentamente le entrate previste e le spese previste dalla legge di stabilità per vedere che siano coerenti con quanto promesso dall'Italia. Ma la notizia è ancora più buona perché per la prima volta la Commissione europea mette in pratica quanto annunciato a fine 2014, ossia nel valutare come vanno i conti pubblici di un paese che aderisce all'euro, tiene presente e tiene in considerazione le condizioni esterne, quindi i cosiddetti fattori rilevanti come la mancata crescita dell'economia anche nel 2014. Tutto bene quindi? No, non necessariamente, perché a fronte di una Commissione europea che non apre nessuna procedura di infrazione contro l'Italia, c'è però la Confcommercio che avverte: attenzione, se gli obiettivi fiscali di maggiori entrate non verranno raggiunti, scatteranno in automatico le cosiddette clausole di salvaguardia promesse a Bruxelles, ossia 72 miliardi di tasse in più. Ecco perché sarà molto importante nei prossimi mesi guardare con attenzione qual è il gettito reale rispetto, per esempio, ai 7 miliardi e mezzo attesi dalla revisione della spesa pubblica o ai miliardi attesi dalla lotta all'evasione fiscale, e cercare di capire se quel mancato, probabilmente mancato gettito, potrà essere compensato con quanto paghiamo in meno di interessi sul debito, visto che lo spread è ai minimi, e a quanto incasseremo in più dall'accordo con la Svizzera. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La fiducia dei consumatori è ai massimi dal 2002, quella delle imprese segna un'impennata che non ha uguali da 4 anni. I dati ISTAT di febbraio volgono davvero al bello, ma siamo alla svolta? Il quadro generale farebbe pensare di sì, ora si tratta di capire quanto questa presunta inversione di rotta sia veloce e ampia. Il contesto del resto è in fase di rapido mutamento, l'Europa ha promosso la legge di stabilità italiana e ha concesso una deroga biennale anche al vero malato d'Europa, che è la Francia. La Grecia è in fase di soluzione, anche se con modalità ancora da specificare. Si coglie in generale un cambio di atteggiamento che ha fatto dimenticare l'Europa talebana dell'austerità contro ogni razionalità e contro ogni idea di crescita e di prosperità economica. La Germania, censurata dall'Europa per la scarsità di investimenti e per l'eccesso di surplus tra export e import, prima o poi darà ossigeno agli investimenti, lo dovrà fare. E per questa via ripartiranno anche le importazioni dai paesi partner. Per l'Italia significa un'ampia gamma di subforniture di qualità in diversi settori, dal meccanico al farmaceutico, dall'elettronica alla chimica. L'Italia del resto sta ripartendo, il dato di fiducia delle imprese, se scomposto nei diversi settori, segnala grande euforia tra quelle di servizio e tra le banche, merito del resto anche dell'annuncio della BCE sull'inondazione imminente di liquidità a basso costo. Il settore che patisce invece il ritardo nella ripresa è l'edilizia, e del resto ha pagato più di tutti e molto pesantemente la strage della recessione. La manifattura in generale invece vede rosa e confida in un futuro più prospero. Anche sul fronte del celebre spread, ormai l'Italia vede quota 100, i rendimenti dei titoli pubblici sono ai minimi di sempre, con un indubbio vantaggio per le casse dello Stato che paga meno di interessi sul debito. Insomma, sembra proprio una di quelle fasi di snodo strategico. Torna in mente Machiavelli: la fortuna offre l'occasione, ma è la virtù che la sfrutta. Ecco, la fortuna c'è, non sprechiamola. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.